forse ancor più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questa tu ora sei, in tutti i sogni miei. Torni in mente, bella come sei, forse ancora più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo ancora sei, in tutti i sogni. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scopro. Ma c'è qualcosa che non scopro. Che non scopro. Che non scopro. Un angelo caduto in...